ecstasies. Sei diverso.

devi capirmi di più. Sai, il cuore a volte ti sale e poi va giù. Capirmi un po', no, non è difficile, basta solo un po' d'amore. Non è che voglio stare un po' senza te. Non è che non ti voglia più qui con me. Solo che ogni tanto vado via, seguendo un sogno, una poesia. Devi capirmi di più, sai, il cuore a volte ti sale e poi va giù. Capirmi un po', no, non è difficile, basta solo un po' d'amore. Donna, no, non potrei. Non è che non sei come io ti vorrei. È come se mi fermassi un po' ad ascoltare come sto. qui. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, io te. Tutta la gente si gira, si gira. Abbiamo chiuso fuori con il suo casino.